24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Destra, sinistra, su, giù, centro, fine del mondo con un giramento. Che chi vuole fuori e chi è dentro e dentro e fuori TV. Non sei niente. Ultimo appello per i merdaioli. Finitevi la merce che di là non funziona. Altro girone, altro regalo. Niente caramelle per i lecca culo. Che il girone è giusto. Ok. Un nome che è il nome di Vittorio Feltri, è una proposta congiunta con Matteo Salvini, non è uno abituato a prendere ordini, una persona abituata a dire quello che pensa, benché io non condivida tutte le sue idee, pensiamo che in Italia ci sia bisogno di una persona così. Fare un nome veramente di garanzia, limpido, immacolato e che possa davvero segnare una rottura col passato, quindi chiaramente è già stato fatto il nome di Gustavo Zagrebelsky. Che all'interno della rosa ci possa essere anche il nome di Bersani. Da campana mi parte l'embolo quando sento il nome di Prodi e vi spiego perché. Prodi è entrato con la Democrazia Cristiana. Ovviamente non potevamo fare il nome di Vittorio Feltri senza averlo detto anche a lui. Lui era ovviamente onorato. Noi ovviamente sappiamo che non riusciamo mai a rompere il patto del Nazareno, però con questo nome riusciamo a mettere in crisi la comunicazione politica che ci sta intorno a noi. Questa persona è Giancarlo Magalli. Non segnate, ma se tutti fanno i nomi, io non capisco perché qui alla redazione di 24 Mattino non possiamo proporre il nostro candidato, come abbiamo già fatto peraltro da 2 o 3 giorni. Il nostro candidato è ufficialmente oggi qui, l'abbiamo con noi e sarà forse una delle ultime occasioni con cui potremo parlare con lui pubblicamente prima di come dire, passare attraverso telefonate un po' varie. È Vincino. Buongiorno Vincino, come stai? Come sta? Comincio a darle del lei perché non c'è per me il lei. Eh? E stamattina mi avevo dimenticato, guarda, suona il telefono, dico chi è a quest'ora? Ecco, subito, comincia subito a prendere le distanze, comincia subito a prendere le distanze, comincia già magari a non risponderci, a dire oggi sono impegnato, oggi... Vincino... Ma è un freddo cane, guarda. Ma che, è raffreddato, signor Vincino, dottore? No, stamattina è freddo qua. Ma qua dove? Sto qua, in questi saloni grandi, enormi. Ah, ecco. Ti stai già abituando a saloni grandissimi. Sì, questo là, poveretto là, quelli enormi quegli enormi corridoi, C'è il rischio di correnti, le correnti. Allora, il nostro candidato è Vincino. Oggi si inizia a votare. Cari grandi elettori, tanti, pochi, tutti quelli che vorranno, mettete per favore Vincino, Vincenzo Gallo, se volete. Ma Vincino lo conoscono tutti così, insomma. Però Vincino, noi ti spingiamo, ma tu cerca di fare un po' di lobbying oggi che vai in Parlamento, non è che, cioè, devi anche guadagnarteli un po' da te i voti, non è che avvicina qualche... sai, questo fatto qua della scheda bianca è complica, bisogna... Sì, dire. Sì, ma guarda che pare che già una settantina voteranno Magalli oggi. Cioè, vorrei farti battere da Giancarlo Magalli adesso. Ma come? Come, cioè, il problema è questo. Scheda bianca è perché uno passa, lascia e va, hai capito? Non hai il tempo di scrivere il nome. Ah, ma... alcuni devono proprio con la bocca lo tengono. le mani dietro. Quindi bisognerebbe, bisognerebbe entrare, questo lo diciamo ai grandi elettori, entrare, stare lì 5 secondi per far finta di scrivere il nome, anche se fate scheda bianca, come quando vai a votare e fai scheda bianca, stai dentro nell'urna almeno, come dire, 30 secondi, fai finta ma, di... Ma quando vai a votare sei là da solo, non ti picchiano, non ti fanno cattiverie, no? Vabbè, invece qui sì, vabbè. Qua invece sì, è così, c'è un così. Controllo ferreo. Un controllo ferreo e vabbè. No? Comunque il nostro candidato è questo, alle 6.32 minuti, è da tre giorni che lo diciamo, questo è 24 mattino, saluto Lorenzo Nespoli in redazione, saluto anche Peter Bescapè in regia e apro subito il Parlamento che... Oggi sarà chiamato a lavori. Vado a prendere un caffè, quindi se molto, molto intensi. Insieme a Vincino voglio salutare un graditissimo ritorno, cioè il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella. Buongiorno Maurizio, eccoci qua. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, buongiorno al presidente Vincino. Ovviamente. Buongiorno, ovviamente salutiamo già. Ma tu hai già bisogno, hai qualche richiesta già da avanzare, Maurizio, al presidente? No, ti dirò io. E la simpatia e l'affetto e tutto quello, la stima. Sì. Pensavo Rossella Brescia che fosse candidato lì. Ah no, Rossella Brescia non ha 50 anni come hai visto. Beh, la prossima volta sarà lei. La prossima volta, ma non lo so, no, mi sa che non rientra ancora. Non ci arriva. Ci arriverà a 50 anni, facciamo una di quelle cose che si dice per fare. Magari un doppio mandato per vincere. Ho capito, ma Vincino, ma non è che ti stiamo mandando a condannato a morte, ti stiamo mandando preso. Posso dire, non gli piacerebbe niente, Vincino. È una cosa terribile. Ma no, ma tu non dirlo. Sarebbe una crudeltà spaventosa. Ma no, ma scusa, ma sembra che... Là mattinate intere con tutti quelli, non so, ricevere tutti gli ambasciatori del... Ricevere tutti i presidenti delle corti di Cassazione, dico quell'altro. No. Ho capito. Noia mortale. Ho capito, ma Vincino, ma scusa, non ci agevoli nel compito di farti. Ma cerca di fare finta almeno fino a sabato, no? E facciamo finta. E poi al primo discorso del 31 dicembre. Ma mentre... nomina i cavalieri del lavoro, mamma mia, che allegria. Mentre fai delle vignette, il 31 dicembre. Fai la vignetta di fine anno invece del discorso di fine anno, dici ragazzi qui ci si annoia da matti, però fai finta fino al 31, insomma, almeno vabbè, niente, sta cercando di demolire la nostra candidatura, è il primo caso. Non cerco di demolire, però la realtà è, come dire, ci vogliono, cioè guarda, due palle per fare il presidente, ma è una cosa, guarda, pazzesca, guarda, vabbè, veniamo invece ai candidati di retroguardia. Allora, i candidati di retroguardia sono: Renzi vuole e insiste su Mattarella. Allora, Mattarella è il nome che Renzi propone. Oggi trovate i titoli di prima pagina, sono tutti su Mattarella. Cioè, Renzi ha detto a Berlusconi Mattarella, e Berlusconi da quell'orecchio pare non ci senta. Allora, Tortorella, che succede? È tutta una manfrina o... Ma non lo so, io vorrei, per amor di parte, volevo ricordare che il nome di Mattarella è stato al Panorama a farlo per Riva 2 settimane fa. Ah, è il vostro candidato? No, nel senso che fosse il nostro candidato, no, nel senso che il nostro Kaiser Sose, che è il rubrichista misterioso, certo. Ma molto competente evidentemente, già 2 settimane fa aveva scritto che il nome che sarebbe poi stato fatto alla fine da Renzi era quello di Mattarella. Ma Berlusconi pare che abbia detto è un giustizialista, è un integralista. Berlusconi non credo che possa piacere Mattarella, che tra l'altro si dimise da ministro per bloccare quella che poi sarebbe stata la riforma della radiotelevisione, e comunque appartiene a un mondo che è quello della sinistra democristiana, che non può essere... Però attenzione, questo addirittura Renzi lo avrebbe detto a Confalonieri, perché il Corriere della Sera dice che Renzi sta trattando soprattutto con Confalonieri per cercare di convincere Berlusconi, dicendogli proprio così, è Vincino, Mattarella, ma dai, è l'unico democristiano che si è dimesso, una volta si è dimesso da ministro, tu te lo ricordi Vincino Mattarella? Come? Che certo, ti... che me lo ricordo. Mattarella è siciliano, assolutamente. Sì. Ricordiamo anche fratello di Pier Santi Mattarella, ucciso dalla mafia, presidente. Sì, però è figlio di Bernardo, diciamo, no? Sì. Bernardo era un ministro, diciamo, molto chiacchierato, ecco, no? Molto amico della famiglia Gambino di New York, però va bene, come dire, non, vengono tutti a Castellammare. E quindi a te va bene, siciliano? No, come no, perché? No. No, non va bene assolutamente, non va bene perché, però, non va bene per tanti motivi, non mi ha mai convinto, devo dirti, non lo so. Non, vabbè, così, a pelle. A pelle sì, non però io non ho capito se è una manfrina, cioè nel senso Maurizio, alla fine Renzi ce la farà, pare che gli abbia detto così a Berlusconi, sta attento, se non ti convinci su Mattarella, guarda che ci becchiamo Romano Prodi. Perché secondo me a lui converrebbe molto di più Romano Prodi. A Renzi, boh. Non lo so mica, non ne sono molto convinto. È un po' ingombrante, Prodi, dai, è lievemente ingombrante. Lievemente ingombrante. Sì, ma secondo me, come dire, dopo una piccola chiacchierata con Prodi, ma poi. Cioè, io devo dire una cosa, io uno con cui ho fatto tre campagne elettorali, quattro, e le ho anche vinte, pareggiate, cosate, no. E poi lo rispetto, una volta che faccio l'istituzionale, faccio il presidente, faccio la cosa, non è che... Non lo so. Vabbè, comunque questo da qui non ci si schioda, ormai siamo al Totonomi che impazza, nel senso che Renzi vuole convincere Berlusconi su Mattarella e pare che Berlusconi voglia convincere Renzi su Amato, solo che Giuliano Amato è odiato dal mondo intero, diciamo, non è che ha una cattiva stampa. Lo dice Vincino, sì, non è, Tortorella non sarebbe secondo me graditissimo agli italiani, amato dagli italiani. Si rimproverano le cinque pensioni, soprattutto prelievo dei 6%. Prelievo forzoso. Ma come 5 pensioni? Ero rimasto a 3. Ne ha 5. Non lo so. Una pensione ormai non si nega più a nessuno. Ah, ecco, appunto. Beh, oddio. No, oddio. No, hai ragione, si nega purtroppo a tante persone. No, volevo fare scrivere stupido. No, indubbiamente Amato ha però un'intelligenza politica, una capacità e caratteristiche che lo farebbero assolutamente essere un ottimo presidente, dal mio personale sommesso punto di vista, non per quel che può contare e valere ovviamente. Non so se effettivamente, cioè è sicuramente inviso a tutta la parte della sinistra del PD, è invisissimo al Movimento 5 Stelle, per carità, per quello che può anche questo contare. Anche a te, è inviso dappertutto. Pare che Berlusconi e Bersani sponsorizzino proprio Giuliano Amato, caro Vincino. Comunque poi pare che ci possiamo beccare anche Pier Ferdinando Casini, che ieri è stato intercettato da Libero a Palazzo Chigi in una visita pochino... È uno degli altri nomi che circolano. Un altro nome logicamente spendibile è quello di Piero Grasso. Piero Grasso. E ancora di più forse quello di Padoan. Piero Grasso, Vincino ha già detto di Piero Grasso. Piero Grasso è un altro siciliano, ti piacerebbe Vincino? Assolutamente no. Hai già detto settimana scorsa. Assolutamente no. Poi per ora sta facendo la supplenza, la cosa, per cui lasciamolo stare. È già in pratica, è già un po' presidente. È già stato preparato anche per l'uso disinvolto della scorta all'interno di quello che non so. Sei subito fatto distinguere così. No, un altro nome, dicevo, forse alla fine potrebbe essere l'outsider che ti aiuta. Veltroni? No, è quello di Padoan, il ministro. Ha detto che vogliono un politico. Sì, ma Padoan comunque ha una caratura internazionale, conoscenze importanti per i suoi pregressi al Fondo Monetario Internazionale. Vabbè, invece c'è anche Veltroni, qua voglio un giudizio. Non ho capito, Vincino. Veltroni vinco io, dai. Con Veltroni. Ho scoperto per oggi da Libero, non lo sapevo, che se a Veltroni andrà male, comunque si può consolare perché dal 2007 è capo tribù di Balaka in Malawi. Tu lo sapevi, Vincino? Finalmente va in Africa. Non lo sapevi? No. È stato nominato nel 2007 per i suoi meriti capo tribù di Balaka. in Malawi, quindi ha sempre una capanna assicurata. Quindi finalmente va in Africa, questa è la notizia. Chi lo sa, una poltrona ce l'ha. Vabbè, mi chiedono, oggi... mi dicono Alberto Forchielli, Presidente della Repubblica, tornerà presto anche a questi microfoni. Vabbè, Vincino, ma tu hai interrogato il busto di Andreotti, cosa dice il busto in marmo di Andreotti che hai in casa? Pure il busto, me lo sono dimenticato, guarda. Ora vado alla finestra. Sì, ci dovevi mandare una foto. Non importa. Ormai sai già con i corazzieri. Allora, oggi è il primo giorno, il primo numero del giornale che firma Cerasa. Sì. Oggi, credo. No. E quindi ieri mi ha fatto fare 230 disegni. No? Perché era preoccupato su come riempire gli spazi. No. Era preoccupato su come... Cerasa, il nuovo direttore del Foglio. Ma noi avremo Giuliano Ferrara ospite alle 8:15. Infatti non so come chiamarlo. Cosa gli devo dire? Direttore no. No. Sì, certo, direttore a vita. Direttore a vita, no. Gli dirò così. Vincino mi ha detto. È buio, non c'è niente. Guarda, ti dico, il busto di Andreotti è avvolto nel buio. Sì, ma in questi giorni si è mosso, ha detto qualcosa, ha chiuso una palpebra, ha mosso. Ha fatto una lacrima. Sì, quando ha piovuto a Roma, lui proprio piangeva tutto il tempo. Perché lo tengo fuori all'agghiaccio. Così impara. Eccolo qua. Così impara. C'è il busto. Ma Tortorella, ma scrivete un articolino sul busto di marmo di Andreotti che Vincino tiene sul terrazzo, no? E lo tiene lì al freddo, così impara alle sue rivincite, così postume il nostro Vincino. Vabbè, poi dopo vi voglio chiedere, è che non volevo subito farvi passare una brutta giornata, ma tra poco vi chiedo di cosa ne pensate delle Quirinarie del Movimento 5 Stelle. Prima sentite Feltri, come ha preso benissimo la notizia di essere candidato dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Lo sai che Salvini ha detto che vorrebbe te al Quirinale? Questo dimostra che non solo abbiamo raschiato il barile, non c'è più neanche il barile. Eccolo lì, Vincino. Questo è un po', fa un po' come te, ma non è una nuova tattica quella di far finta di dire ma no, che palle... Io penso che sia una persona intelligente, insomma, Vittorio Feltri, e deve essere uno dei mestieri più terribili del mondo, guarda, non ho capito. Come lo fa Mujica, quello là, no, che là tranquillo, che se ne sta a zappare l'orto, là ogni tanto vai. O lo fai così, o se lo fai invece come l'ha fatto Napolitano, è un incubo, là, sempre coi corazzieri. Capito? Tortorella, di qualcosa, ci sono dei lavori un po' più complicati. Secondo me. Sì, per carità, la miniera, no, sono d'accordo, però perfettamente convincita, mi spiace. Sì, però, cioè, deve essere una roba che una pallosa. Roba da noia mortale. Forse il regina d'Inghilterra ha un lavoro più. Vabbè, quella però non è che si prende i voti in Parlamento, lì per diventare re ci vuole un po' più complicato per diventare re. Se ne ammazzare qualcuno qualche generazione prima. No, vabbè. Comunque, niente, Feltri, vabbè, dopo il traffico invece preparatevi perché vi chiederò del Movimento 5 Stelle, i vostri amici con cui passate aperitivi e cene, perché loro hanno scelto anche Bersani. Beh, scegliere Bersani è geniale. 2 anni fa lo avrebbero accoltellato nelle scapole, ma adesso vorrebbero Bersani al Quirinale. 24 mattino. Cosa dire, guardi, ora stanno facendo una storia per questo benedetto presidente che per me non ha nessuna funzione, il presidente, e questi ancora non pensano a fare tutte queste manfrine, il presidente, il patto del Nazareno, quest'altro bambinello che è venuto da poco, non eletto da nessuno, non ha risolto ancora nessun problema, e noi genitori che siamo sempre in pensiero per questi benedetti figli che non hanno il lavoro, questi pensano soltanto a litigare fra di loro. Milka, solo a te che non lo sappia nessun altro, ho saputo il nome che farà Renzi per il candidato alla presidenza della Repubblica, il Gran Mogol del gruppo scout Le Giovani Marmotte. Sì, mi sembra che di essere a Paperopoli. Renzi, che è il commissario Basettoni, incontra Bibi, Berlusconi, Bersani, la banda Bassotti. Ma dai, ma piantiamola. Io mi chiedo per quale motivo c'è sempre questo vizio di giustificare persone che decidono di uscire dal Movimento 5 Stelle così. Guarda caso anche stavolta due giorni prima delle elezioni del presidente, signori, e quello lì voleva andare a Nazareno e si è beccato gli insulti. Gli insulti sono pochi. Vincino, sono pochi gli insulti, sta attento, adesso si riferiva a Rizzetto che è stato un po' insultato. È una cosa questa, la cosa peggiore, cosa ho visto Rodotà pure lui non è nella lista, non è nei corsi, che è espulso dal Movimento 5 Stelle. No, che ha fatto Rodotà per essere stato espulso? Ma no, è espulso. Lui e la figlia non sanno come. Come no, espulso? Cioè, due anni fa volevano fare la rivoluzione, sì, là, sì. Che Grillo voleva prendere Roma, ferro a fuoco per Rodotà, e invece questa volta chi? Niente, e vabbè, Rodotà. Non c'è Rodotà, ma no, Rodotà nella lista del coso là del Fatto Quotidiano è dopo Magalli al secondo posto, dopo Magalli, però prima c'è Magalli, ho capito, ma proposito per questo, allora, cioè, senti è diventato pure lui traditore, è chiesto cosa? Ma chi? Magalli? No ma è il candidato del 5 Stelle, è traditore, questo è qua, quel nome che hanno fatto veramente là di notte è questo. Ma chi? Non ho capito, ma quale nome? I 5 Stelle hanno fatto il nome traditore. Cioè hanno insultato, vogliono il signor traditore. Al coso, mamma mia. Questa era un po' arzigogolata, traditore, vabbè, traditore. È una scena terrificante quella là, guarda, io me la sono rivista due volte, tre volte. Senti, allora su questa scena, Giarrusso, su questa scena di Rizzetto, degli insulti, senti Giarrusso del Movimento 5 Stelle che dice che non c'è stata alcuna violenza, senti. Non c'è stata nessuna violenza, la violenza è quella di chi ha tutti gli strumenti di comunicazione e dà dei fascisti ai cittadini che vogliono semplicemente dimostrare il loro disappunto. Eccolo lì, era semplice disappunto. Tortorella, tu hai mai dimostrato un semplice disappunto così insultando, vergognati, traditore? No, per fortuna no. Vabbè, però non è adesso violenza, cioè contestazioni ci sono state, non è che nessuno ne ha messo. Anche verbale, per carità. Sì, sì. Ma che dovevano fargli? Cioè dire bravo, insomma, no, discutiamo. Una volta, allora, non ho assistito alla scena, quindi non l'ho vista. Ma no, vabbè, sui giornali, in TV. Non l'ho vista neanche sullo online, mi spiace, non l'ho osservata, per cui non posso dire. Vabbè, se vuoi ti facciamo sentire l'audio, dai, no, intanto no, dici. No, adesso no, so che vuoi sentire l'audio, no, ma dici intanto, vabbè, dici, cosa non va bene di... No, ma i 5 Stelle che adesso propongono Bersani, che è una manovra furbetta per coinvolgere la sinistra del PD contro Renzi... Sì. Sono giochetti così, non andranno da molto lontano, immagino, insomma, no? Ma credo di no, credo che non la da bambini sono cretini proprio questi, sono deficienti totali, non è che loro in testa loro da ieri hanno cominciato a giocare a fare la politica, ma non è una cosa per loro, non è che Fassina, che io non stimo stimo molto poco, ma non è così scemo da cadere in questa cosa qua. Credo che invece ci siano già cascati perché gli piace l'idea. Vabbè, comunque sentitelo l'audio, l'aggressione è stata questa. Più o meno. Dimettiti! Ovviamente c'era lì Rizzetto che tentava, c'erano tanti microfoni, tentava, però Vincino, tu hai paura che se non ci fossero stati i microfoni l'avessero incontrato in un crocicchio? Ma l'hanno menato dopo qualche boffa se l'è presa, non so se lui o un altro più nella notte inoltrata, l'aggressione fisica c'è stata dopo. Non è un bel sentire questo. Ma in una strada del centro di Roma, no, poveretto, anche perché 50, 100 persone contro una persona sola. Come fare a difenderlo? Vabbè, quindi oh, che dobbiamo fare? Nel senso, se uno non può manco camminare nel centro di Roma senza essere aggredito e insultato da come dire, Comunque allora l'ho tradotta così: vincino al Movimento 5 Stelle, dimmi se è corretto il pensiero, Presidente, non vorrei. Sono cretini proprio, sono deficienti totali, la politica non è il loro mestiere. Ma assolutamente no, non... Cioè va bene? Posso twittarla così? No, non lo so, guarda, tu fai... ognuno è responsabile dei suoi tweet, tu no, cerchi no, di inguaiarmi, ogni settimana cerchi di inguaiarmi, va bene? Allora, l'hai detto pubblicamente, posso twittarlo così? Te lo chiedo? Tu sei libero dei tuoi tweet. Va bene, allora, allora l'ho twittato, perché ti voglio bene, voglio che ti seguano durante questa giornata, che ti accompagnino, che ti dicano la loro, insomma. Sentite invece cosa dice, questo per concludere gli ultimi due minuti, Harry De Luca che è a processo per aver detto la TAV va sabotata, e la sua versione processuale è questa: se quello che ho detto è reato continuerò a dirlo e continuerò a difendere le mie parole, lo deciderà il tribunale se sono innocente o innocuo. Quello che ho detto è per me una cosa evidente, che la TAV va sabotata. L'ha ribadito Tortorella. Io devo dire che Harry, voglio bene poi, sì, alla fine, no, sì, perché usa delle logiche, degli slogan vagamente degli anni 70, vagamente, come dire, un po' retro. No, lui, come la parola sabotaggio, dice, in realtà è nobile il sabotaggio, cosa, non è che cosa, non, cioè non tira pietre, ecco, oggi no, sì. però c'è gente che se sente dire qualcosa del genere può invece vabbè, ma sai, come impegni. L'incitamento alla violenza non è che sia è a processo, verbale, no? È a processo per stabilire questo, cioè se queste sue parole siano o meno un incitamento alla violenza. Lui dice: io sono libero. Violenza ce n'è stata, abbastanza. Sì, però effettivamente bisogna stabilire se la violenza poi sia generata da una libertà di pensiero anche dura a dire la TAV va sabotata. Ecco, questa è la sua versione. Un sabotaggio politico, come dire. Sì, lui dice uno sciopero anche un sabotaggio, però queste sono difese processuali, chiaramente. Lì bisogna capire. Cioè, è cominciata prima tutti i casini sulla TAV, Harry è venuto dopo a dare il suo appoggio verbale, per cui come dire, secondo me ha una sua, tu lo difendi, la libertà di parola ha una sua nobiltà, assolutamente, come quella di Vincenzo, assolutamente. Va bene. Quale sarà la sua prima vignetta appena eletto, Presidente? Aspettiamo dopo. Aspettiamo. Comincia a prenderci un po' gusto. Comincia a prenderci un po' gusto. Va bene, vi raccomando, grandi elettori, votate oggi dalle 2:30 la prima votazione. Vincino, è molto semplice. Scrivete nella scheda Vincino, cari parlamentari. E noi chiederemo a lui, una volta eletto presidente, ovviamente onori e prebende. Grazie a Vincino, a Tortorella. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, cari ascoltatori, alle 7:18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, ricordandovi che si inizia oggi, si inizia a votare per il Presidente della Repubblica, oggi pomeriggio le prime votazioni che non saranno certamente decisive, questo perché non ci sono i numeri. E quindi presumibilmente si voterà il presidente, credo, sabato, se questo è l'impegno e l'obiettivo del presidente del Consiglio Renzi. Comunque noi parleremo con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, e con Giuliano Ferrara, che da oggi non è più direttore del Foglio, perché da oggi direttore del Foglio è Claudio Cerasa, però insomma Giuliano Ferrara, ecco, sapete bene chi è, no? Avremo ospite oggi anche il rettore del Politecnico di Milano. Torniamo sulla vicenda, la polemica, il caso anche giudiziario delle lezioni esclusivamente in inglese nell'Ateneo di Milano, e che ha fatto molto discutere, e che tra l'altro tre giorni fa, quando ci siamo occupati di questo tema, ha fatto molto discutere anche i nostri ascoltatori. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. In questo giovedì 29 gennaio i titoli: Il Sole 24 Ore insiste per l'ennesimo giorno sulla vicenda della Grecia, crolla la borsa greca, bond al 17%, Tsipras frena sul debito, questo è il titolo di prima pagina, ma poi per il resto i giornali si concentrano sulla corsa al Quirinale. Il nome più gettonato nel titolo oggi è Mattarella. Il Corriere della Sera, la sfida di Renzi su Mattarella. Repubblica, Renzi, il nome è Mattarella. La Stampa, Quirinale, Renzi sfida Berlusconi. Il Messaggero, Renzi va alla conta su Mattarella. Il Secolo XIX, la sfida di Renzi sul Colle. Per il Giornale, Quirinale, Renzi fa il nome. Ed è Mattarella, appunto. Libero la sintetizza così: Renzi usa il Mattarello. Il Fatto Quotidiano, i due nazareni si incartano, 5 Stelle, c'è anche Prodi. Mentre il Manifesto mette il titolo Focherellum, e c'è la foto del Parlamento con le urne per contenere i voti, mentre Avvenire titola Un vero presidente, Renzi, Mattarella per unire, ma Berlusconi esita, questo è il punto. Lo vedremo tra un attimo. Prima voglio partire dalla lettura di alcuni articoli che mi hanno colpito, che non sono proprio i titoli di prima pagina, come di consueto. Per esempio, la vicenda dei famosi dossier Cottarelli, che ritorna in auge sul Corriere della Sera, pagina 12, con Lorenzo Salvia. Ricordate che Cottarelli, mani di forbice, chiamato dal Fondo Monetario, è venuto in Italia, ha fatto tutti i dossier per come risparmiare i costi dello Stato. Che fine hanno fatto questi dossier con tanto di 25 gruppi di lavoro? Non sono mai stati pubblicati. E adesso, in nome della trasparenza, qualcuno chiede che vengano pubblicati. Corriere della Sera, che fine hanno fatto i dossier di Cottarelli con tutte le proposte per eliminare gli sprechi della spesa pubblica? Dello studio fatto dal commissario alla Spending Review conosciamo solo una parte, le slide pubblicate un anno fa, più qualche analisi messa dallo stesso Cottarelli sul suo blog, ma non conosciamo i documenti dei 25 gruppi di lavoro. Ora alcune associazioni ne hanno chiesto notizie alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Economia, ma le risposte sono quantomeno evasive. Questo dipartimento non possiede gli atti richiesti, scrive per esempio Palazzo Chigi il 17 dicembre scorso, aggiungendo che Cottarelli si avvaleva di risorse umane e strumentali del Ministero dell'Economia. Dunque a Palazzo Chigi dicono: rivolgetevi al Ministero dell'Economia. Allora le associazioni si rivolgono al Ministero dell'Economia, ma anche qui la risposta arrivata il 16 gennaio è sfuggente. Non ci è possibile procedere a quanto da lei richiesto, in quanto la documentazione non è in nostro possesso, non facendo parte il commissario di questo ministero. E allora a questo punto è chiaro che le associazioni, quelle che hanno lanciato in Italia foia.it, c'è una campagna per avere nel nostro paese il cosiddetto Freedom of Information Act, cioè una legge che, sull'esempio di quanto fatto negli Stati Uniti 60 anni fa, obblighi la pubblica amministrazione a rendere accessibili tutti i propri atti ai cittadini, e a questo punto dice e tira fuori la polemica. Tra l'altro io ricordo invitammo per esempio persone che hanno fatto parte di questi gruppi di lavoro e che privatamente hanno deciso, magari ha trovato le loro conclusioni nel cassetto, di renderle pubbliche. Uscì per esempio qualcosa sul Corriere della Sera perché faceva parte di uno di questi gruppi di lavoro Riccardo Puglisi, che ospitammo. Invito ancora pubblicamente a questo punto, visto che non lo fanno le istituzioni, neanche fanno finta che Cottarelli, quasi tra un mese praticamente diranno Cottarelli chi? Non mai sentito questo nome. Ecco, allora, chi ha fatto parte di questi gruppi di lavoro? avrete in mano qualche chiavetta con dentro tutti i documenti, rendeteli pubblici, chiamate i giornalisti, chiamate noi, li mettiamo pubblici sul nostro sito, rendeteli pubblici. Avete fatto parte di questi gruppi di lavoro con Cottarelli, fatelo, non credo che incappiate in qualche problema, no? E se c'è qualche violazione di una legge, anteponete la trasparenza. Di fronte alla trasparenza che fanno? Dicono che non va bene la trasparenza? Lasciateglielo dire. E quindi invito tutti a rendere pubblici questi dossier venuti fuori dai gruppi di lavoro. Ci sono alcune notizie di giudiziaria, a cominciare, e resto sul Corriere della Sera, dalla vicenda di Daniela Poggiali. Ricordate, 42 anni, infermiera a Forlì, arrestata in ospedale perché accusata di avere volutamente ucciso dei pazienti. L'accusa è terribile. E oggi il Corriere della Sera con Andrea Pasqualetto racconta: così l'infermiera sceglieva chi doveva vivere o morire. La vicenda riguarda certamente alcuni decessi, circa una ventina, sui quali si indaga, ma in realtà i decessi nel reparto in cui lavorava l'infermiera Daniela Poggiali sono sotto osservazione, sono 139. Dei 191 decessi nel periodo di servizio della Poggiali all'ospedale, 139 si sono verificati nello stesso settore in cui in quel momento stava lavorando l'indagata. Il tasso di mortalità settimanale quando lei era in servizio è risultato più elevato rispetto a quello osservato nel periodo in cui non era in servizio. Il numero dei morti nel reparto in cui la Poggiali prestava servizio è superiore di 2,5 volte rispetto a quello dei decessi osservati quando la stessa risultava assegnata in un altro settore. È il caso, la sfortuna o c'è dell'altro? Come racconta il Corriere, è qui che si gioca il processo. L'analisi epidemiologica è articolata, prende in considerazione in particolare gli ultimi 6 mesi di attività, nei quali emerge un significativo eccesso di mortalità quando l'infermiera Poggiali era in servizio. Ricordate anche le foto terribili che si fece fare, come accanto ai morti, sbeffeggiandoli nelle loro pose. Mentre sui giornali continua la vicenda Fabrizio Corona. Per il giornale è così: niente pietà per i VIP. Che è successo? Addirittura hanno a Fabrizio Corona, che aveva chiesto di essere mandato ai domiciliari in una comunità a scontare il residuo di pena, la risposta è stata che gli hanno tolto anche lo sconto di pena. Insomma, tradotto, Fabrizio Corona non dovrà più fare 9 anni, ma 13. Quindi non solo non gli hanno dato al momento la possibilità di scontare il residuo di pena fuori, gli hanno aumentato la pena da 9 a 13 anni, tanto che Filippo Facci oggi su Libero dedica il suo appunto in prima pagina proprio a Corona. Scrive Facci: i paragoni tra condanne diverse e per reati diversi non si dovrebbero fare, ma è difficile resistere alla tentazione. Allora, secondo la Cassazione, i reati di Corona non sono in continuazione tra loro e quindi non ha diritto allo sconto e va a 13 anni dai 9. Si devono fare i calcoli nuovamente. 13 anni, senza possibilità di benefici o arresti domiciliari, ed è impossibile non fare paragoni. Per esempio con Anna Maria Franzoni, che invece ai domiciliari per aver soltanto fatto a pezzi il suo figlio. Oppure con i celeberrimi Erika e Omar, i fidanzatini che una sera nel 2001 uccisero la madre e il fratellino di colei, 40 coltellate alla madre, 57 al fratellino undicenne. La Franzoni è fuori dal giugno scorso, Erika era libera dopo 10 anni, Omar dopo 9, Fabrizio Corona deve farsene invece 13 senza benefici di legge. Che in Italia si smetta di discutere le sentenze, in altre parole, potete scordarvelo. E, tra l'altro, a proposito di tribunali, veniamo all'articolo che certamente oggi mi fa pensare di questa giornata. È l'articolo del Fatto Quotidiano con un'intervista che Valeria Pacelli fa a Mario Bresciano, presidente di un tribunale. Sentite cosa racconta, presidente del Tribunale di Roma dal 2012, Mario Bresciano. Cadiamo a pezzi. Il problema più grave è l'organico del personale. Su 1.198 persone ne sono presenti 835, una scopertura del 30%. Sì, ma cosa vuol dire in concreto? Sentite qui, sentite il presidente del Tribunale di Roma. Cosa vuol dire in concreto? Per esempio, primo problema, i visti di irrevocabilità sulle sentenze che non vengono più messi. Questo vuol dire che se una persona ha una condanna passata in giudicato e manca il visto, al casellario giudiziario continua a risultare incensurato. Inoltre c'è il rischio prescrizione, ci sono migliaia di sentenze impugnate, ma proprio perché non possono essere trasmesse alla Corte d'Appello, il tempo scorre e i reati si prescrivono. Facciamo un esempio pratico. Se a un cittadino pignorano la casa, ma questo paga, non c'è alcun cancelliere che comunica al giudice la richiesta telematica di sospensione della vendita. Così il cittadino, anche se ha pagato, subirà la vendita dell'abitazione. Ma ci rendiamo conto? Questo succede in un tribunale, non un tribunale, il Tribunale di Roma, nella Repubblica Italiana, nel 2015. Non c'è personale, non ci sono, siamo scoperti, non ci sono i mezzi, per cui, che ne so, un cittadino paga, ma non viene comunicato al giudice, non ci sono gli strumenti, i mezzi, le persone, quindi magari voi pagate per la vostra casa che risultava a rischio pignoramento e vabbè, il presidente del Tribunale di Roma dice la vostra casa ve la vendiamo lo stesso. Andiamo in pubblicità? Andiamo in pubblicità. Chi lo sa? Ma no, non c'è la pubblicità, si è impallato tutto. Peter Bescapè mi guarda e mi dice le macchine si sono impallate. Che faccio? Continuo allora? Fammi un cenno. Fa un cenno così, Peter Bescapè dice continua, continua. E allora continuo a leggere i giornali, che devo fare? Cominciamo da questa notizia di cronaca che troviamo a pagina 27 del Corriere della Sera. È Francesca Basso che racconta di questa notizia: la signora fa default, debito rinegoziato da 87 a 11.000 euro. Una bella notizia di cronaca che riguarda la signora, l'impiegata Rossella Stucchi, 53 anni, che aveva un debito con Equitalia di 87.000 euro, ma ha detto io sono praticamente fallita, era arrivata a dover pagare 1.000 euro al mese, poco meno del suo stipendio da 1.080 euro, e a questo punto, grazie alla composizione della crisi da sovraindebitamento, una norma emanata dal governo Monti e poi ritoccata dal governo Letta, in pratica ha detto e ha concordato col giudice una sorta di fallimento concordato, anche pur non essendo un'impresa, ma essendo una persona, essendo una famiglia, e per questo il giudice ha accettato di rinegoziare il suo debito da 87.000 a 11.000 euro. Trovate questa storia sul Corriere della Sera. Alessandro Milan, il presidente dell'informazione. Sì, però dell'informazione. Al Quirinale non ho purtroppo 50 anni, come detto avrei sbaragliato qualsiasi tipo di concorrenza, ma noi abbiamo il candidato, ricordate, grandi elettori, che oggi alle 14.30 dovete votare, dovete mettere nella scheda Vincino. Vincino è il nostro candidato, ma anche il vostro sicuramente, fa bene le vignette, è divertente, ha quella pazzia giusta per dire ciò che pensa, insomma ci divertiremo tantissimo per 7 anni. Votate Vincino, grazie. Mentre se stiamo a quello che dicono i giornali, la situazione è abbastanza chiara e complicatissima al tempo stesso. Chiara nel senso che Renzi ha visto Berlusconi e Renzi ha fatto il suo nome. Sergio Mattarella, giudice alla Corte Costituzionale, vuole Mattarella, insistere su Mattarella, ma su questo fronte Berlusconi non ci sente. Secondo Repubblica, Mattarella proprio no, dice Berlusconi, è un giustizialista, è un integralista, da giudice della Corte Costituzionale, ma sempre detto contro e si è messo di mezzo. Si ricorda anche che nella storia di Mattarella ci furono le dimissioni da ministro quando sulla legge Mammì ci fu la possibilità di riaprire le TV private che rischiavano la chiusura, e Mattarella si dimise in polemica. Quello secondo Berlusconi in qualche modo è il segnale che Mattarella non è dei suoi. Comunque Il nome è quello. Renzi prova a insistere, tanto che racconta il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli e Francesco Verderami. Renzi fa pressing soprattutto attraverso confalonieri per convincere l'ex cavaliere, scrive il Corriere. Il Renzi ha parlato con Fedele Confalonieri, che è la quintessenza del berlusconismo, incrocia la conoscenza dell'arte politica col pragmatismo aziendale. Così le vere consultazioni per il Colle Renzi le ha concluse con il capo del Biscione, Confalonieri, perché Berlusconi si era mostrato contrario alla candidatura di Sergio Mattarella. Anche Gianni Letta cerca di convincere Berlusconi a dire: dai, Mattarella non è nostro nemico. Possiamo dire anche che è stato l'unico democristiano a dimettersi davvero, e si dimise appunto quando era ministro, e come raccontano tutti i giornali sulla vicenda della legge Mammì. Insomma, secondo il Corriere della Sera, Renzi ieri, dopo una giornata di consultazioni, a notte diceva con ottimismo: se tutto andrà bene, Mattarella sarà il 12° presidente della Repubblica, anche se l'operazione è seria e difficile e comporta dei rischi. È difficile perché i dubbi di Berlusconi sono su questo nome. Berlusconi invece avrebbe insistito con Amato, ma Amato, secondo Renzi, verrebbe impallinato dai franchi tiratori. Ho fatto i conti con Lotti, cioè il sottosegretario, e con il vento dell'antipolitica che tira, a voto segreto Amato verrebbe fatto fuori. Però intanto Renzi ieri ha incontrato proprio Amato a Palazzo Chigi. Attenzione, perché ha incontrato anche Pier Ferdinando Casini, e Libero scrive: Pier Ferdinando Casini potrebbe essere la carta da giocare. E poi ci sono anche gli altri nomi che vanno avanti. Veltroni, oggi rispunta Veltroni con un paio di pagine sul Messaggero, su il profilo di Giancarlo Perna su Libero. E tra l'altro ci informa Giancarlo Perna, io non lo sapevo, che Veltroni, andasse male, è comunque pur sempre stato nominato nel 2007 capo tribù di Balaka in Malawi, quindi una capanna è assicurata, una sontuosa capanna, ovviamente, magari non il Quirinale, ma una capanna sontuosa per Veltroni c'è sempre lì, in Malawi, dove è capo tribù a Balaka. Secondo il retroscena del secolo XIX, a firma Giovanni Palombo, a pagina 3, Renzi ha giocato anche questa carta a Berlusconi, insistendo su Mattarella: seguimi su questa linea o rischiamo entrambi di trovarci Romano Prodi presidente. Ecco perché Romano Prodi è uno dei nomi che vengono fuori dalle quirinarie del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha cambiato idea, ha detto: non faremo le quirinarie, invece adesso fanno le quirinarie oggi dalle 9 alle 14, quirinarie veloci, perché poi dalle 14:30 c'è il primo voto, e hanno proposto una rosa di nomi. Tra questi nomi c'è anche Bersani. Capite che la politica è una maionese impazzita. 2 anni fa il Movimento 5 Stelle non ha fatto il governo con Bersani. Adesso propongono Bersani, chiaramente per mettere in difficoltà Renzi e cercare qualche sponda evidentemente nei bersaniani del PD. Comunque Bersani, Raffaele Cantone, Antonino Di Matteo, che è un magistrato, Ferdinando Imposimato, che è un ex magistrato, Elio Lannutti dei consumatori, Paolo Maddalena, che è un magistrato, Romano Prodi, Salvatore Settis e Gustavo Zagrebelsky, che è un professore, giudice, magistratura anche lì. Insomma, qualcuno fa notare 5 magistrati, 5, 6, quanti sono i magistrati su 10? Comunque, questi sono i 10 che, mentre Lorenza Carlassare si è già tirata fuori, ha detto no, quindi sono 9, perché Lorenza Carlassare, che l'ha nominata tra i 10, ha detto no, io non mi tiro fuori dalla partita. E racconta Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, pagina 7, il resoconto della giornata grillina. Il più lucido è Maurizio Buccarella, che dice: signori, pragmatismo, mentre il più eversivo è l'onorevole Valente, dobbiamo circondare il Parlamento, incutergli timore. Il più dadaista è Paolo Bernini, che dice: c'è un solo candidato che li può mettere in crisi, conosciuto, onesto, sorridente, volontario dei vigili urbani, commendatore emerito, è Giancarlo Magalli, mentre alcuni del Movimento 5 Stelle, proprio Bersani, non ce la fanno. Addirittura l'onorevole Villarosa dice: il mio volto si sta autodistruggendo al nome di Bersani. Comunque, alla fine la rosa di 9 che verranno proposti oggi agli esponenti del Movimento, che potranno votare in rete, ci sono. Magalli, tra l'altro, insiste, fa un'intervista con Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera e dice: non mi ritiro, vedo tutti i risolini su di me, attorno a me. Ma negli Stati Uniti un attore come Ronald Reagan è stato niente affatto male. Insomma, Giancarlo Magalli, io come Reagan e Schwarzenegger, non mi ritiro, so che in tanti mi voteranno. Che bello oggi vedere, sentire la Boldrini. Magalli oggi pomeriggio, straordinario, sarà una delle scene più belle che io ricorderò nella vita. Magalli, bellissimo. Come sintetizza Iena a pagina 3 della Stampa, direi che è la sintesi perfetta di oggi. E leggetene uno e lasciateci vivere. Mauro Meazza, vai bene anche tu, ma lasciateci vivere. Buongiorno, sì, non capisco, cioè potrebbe anche dire Milan per non Milan, so, Magalli o Vincino, anche... mi raccomando Vincino, io voglio sentire Vincino. Vabbè, comunque senti, facciamo la svelta perché oggi è un giorno molto importante, ma molto importante perché? Perché c'è telefisco. Allora, oggi in 114, mi pare siano diventate nel frattempo 16, può seguire questo convegno sulle novità fiscali. E le novità fiscali, tu sai, caro Milan, che sono sempre parecchie e soprattutto ti interessano, ti possono toccare anche nei tuoi due urini. Quindi non fare lo spiritoso. Le telefisco oggi tutto il giorno, partenza poco dopo le 9 e poi andiamo avanti per tutta la giornata, poi vediamo, insomma, per seguire anche le votazioni del Quirinale, ma tanto Radio 24 informerà sull'uno e sull'altro evento. Poi ti volevo dire, un attimo di comunicazione di servizio, c'è il principio contabile OIC 24, è importante. Ma è importante, sì, beni immateriali e oneri pluriennali. Non devi capire tu, Alessandro. No. Chi sempre deve capire, specialmente gli interessati a Telefisco, capisce. Ne parliamo oggi sulle pagine, questa volta sì, ovviamente, di norme e tributi. Invece altrove ci sono delle bussole, delle indicazioni importanti per i BOT, per i possessori dei titoli di Stato, nelle primissime pagine, con anche una bussola su per coloro che sono magari in cerca di rendimenti un po' più alti, attenzione ai rischi. Oggi spieghiamo nella nostra bussola. C'è il voto plurimo oggi per il Quirinale. Plurimo cosa vuol dire? Plurimo. Votano due volte? No, perché devi sapere che ieri, ne riferiamo in finanza, c'è stata una sorta di debutto sul campo del voto plurimo, cioè quello che è riservato agli azionisti più fedeli. Ecco. Però appunto la cosa non è, però oggi non c'è il voto plurimo lì. No, tu non sai cos'è il voto plurimo, è la verità. Questo è scontato come sempre. Va bene, allora leggi nelle pagine Finanza e Mercati oggi, parliamo del voto plurimo, che devo fare con te, Alessandro? Non lo so, ne ho parlato anche con i tuoi genitori, come possiamo fare? Va bene, vado che ho da fare. Vai. Alessandro Milan, l'esorcista dell'informazione italiana. L'esorcista, va bene. E va bene anche questo. Allora, per quel che riguarda la Grecia, oggi il Sole 24 Ore apre su questo, perché le prime mosse del governo Tsipras sono mosse dirompenti se si guarda dal punto di vista del braccio di ferro con l'Europa e con la Troica. Debutto shock per Tsipras, lo stop alle privatizzazioni nel primo consiglio dei ministri. Come racconta Vittorio Darold a pagina 2 del Sole, ha abbattuto uno dei pilastri del Washington Consensus, cioè della riduzione del debito pubblico. Ha chiesto subito e annunciato Tsipras il blocco delle privatizzazioni. Il ministro dell'energia ha detto che bloccherà immediatamente il piano di privatizzazione del 30% della compagnia elettrica, congelata anche la cessione del 67% dell'autorità di gestione del porto del Pireo. un'operazione già avviata per la quale è rimasta in corsa 4 società, tra cui un colosso cinese, il colosso Costco, che gestisce per 30 anni già le due maggiori banchine container dello scalo. Insomma, Tsipras dice stop alle privatizzazioni, per carità, lo aveva già messo nel programma di governo, ma quello che ha stupito è la velocità, la celerità dell'annuncio dopo il primo Consiglio dei Ministri. Come reagisce la borsa di Atene? Crolla e volano i tassi. Le azioni perdono il 9,2%, il bond triennale tocca il 17% e ovviamente la preoccupazione da parte dell'Europa c'è. Anche il quotidiano La Stampa titola stop alle privatizzazioni, Tsipras va subito all'attacco. Tra l'altro La Stampa, anche mezza pagina interessante, così se volete di colore, concentrata su una persona che da ieri in Grecia è diventata famosissima. Si chiama Lambros Moustakis, era un insegnante, ora è diventato un senzatetto, una delle tante persone che in Grecia faticano davvero a mettere insieme il pranzo con la cena. Perché è diventato famoso? Perché a lui il neo ministro alle finanze, autodefinitosi e si sa marxista, Yannis Varoufakis, ha dedicato un lungo e commovente post nel suo blog. Il ministro, il neo ministro Varoufakis, ha conosciuto questo senza tetto perché questo senza tetto si è presentato a lui fingendosi l'accompagnatore di una giornalista del Mundo che è andata a intervistare il neo ministro. E il neo ministro dice: io, questo assistente o finto assistente della giornalista, è stato zitto tutto il tempo, no? Si è presentato così, sono l'assistente della giornalista. Poi, finita l'intervista, mi si è avvicinato e mi ha detto: io ho perso tutto, ho perso il lavoro, ho perso la casa e chiedo di non lottare per me, ha detto al neo ministro. Non faccia niente per me, le chiedo solo di fare qualcosa per tutti coloro che ancora non sono caduti in basso come me nell'abisso della società. Ecco che il neo ministro Varoufakis ieri ha scritto un lungo post sul suo blog dicendo: quando sono diventato ministro ho ripensato solo a quelle parole, non ho pensato allo spread, non ho pensato al tesoro, non ho pensato agli accordi con l'Europa, ho pensato solo alle parole di Lambros Moustakis, che ha perso tutto in pochi anni. E vabbè, questa storia la trovate sulla Stampa a pagina 7. La cronaca, beh, c'erano dei nuovi simpaticoni che ridevano dopo il terremoto dell'Emilia, ridevano pensando ai capannoni che crollavano e loro che, così possiamo costruire noi. È un insieme di intercettazioni che provengono da una grande inchiesta che è andata a scoperchiare un sistema di boss, amici, politici, istituzioni arruolate. Dalla Calabria l'Andrangheta era permeata totalmente nel tessuto sociale di Reggio Emilia. Questo almeno dall'inchiesta di cui tutti i giornali rendono conto. Le risate dell'Andrangheta dopo il terremoto in Emilia, amianto per ricostruire strade e scuole distrutte. Questo è il titolo, per esempio, di Repubblica, pagina 18, ma davvero ovunque trovate almeno due pagine su questa inchiesta incredibile. Ovviamente sono accuse tutte da provare, ma la rete dei clan dell'Andrangheta e Emilia è una rete molto diffusa e pervasiva, stando a questa inchiesta. Va bene, vi voglio anche segnalare uno spassoso articolo della Stampa, pagina 11, di Giuseppe Salvaggiulo, sugli esempi di efficienza e sintesi del mondo classico della burocrazia italiana. Il dottor Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale, infallibile gran commis di Stato, uscito dalla penna del costituzionalista romanziere Alfonso Celotto, che si è divertito a raccogliere le 10 sigle più inutili, demenziali, astruse della burocrazia italiana, per cui ci sono frasi del tipo: vado all'URP per chiedere il CUP e consegnare il DURC al RUP. Non è che ci siamo ammattiti, cioè vado all'ufficio relazioni col pubblico per chiedere il codice unico del progetto e consegnare il documento unico di regolarità contributiva al responsabile unico del procedimento. Ma ancora, il MISE ha chiesto al MIT di acquisire il concerto del MATM su proposta del MEF, sentito il DAGL della PCM. Eh? Vi piace questa, eh? Cioè, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di acquisire il concerto del Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare su proposta del Ministero dell'Economia e Finanze, sentito il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con le sigle si usano 21 parole anziché 49. 107 caratteri anziché 339. Certo, non si capisce una mazza, ma non si può avere tutto dalla vita. Comunque questo viaggio nella burocrazia più astrusa la trovate a pagina 11 della Stampa. Siamo velocissimi in conclusione, allora siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Ma dai, va bene, ho capito, il nostro David Parenza ha avuto una disavventura non piacevole ad Auschwitz, nel senso che è rimasto chiuso insieme a Riccardo Pacifici e a Comunità Ebraica di Roma, ma libero a dedicarci tutta una pagina. Tentano la fuga da Auschwitz, fermati Parenzo e la sua troupe. David, basta, me ne frega. 24 mattino. E allora ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:18 minuti. Ci siamo, cari cittadini, cari italiani. Da oggi si vota. Non sarà un giorno decisivo perché giovedì e venerdì presumibilmente si voterà scheda bianca, usciranno tanti anche Magalli. Noi abbiamo proposto un nome che è Vincino, votate Vincino, magari ci sarà anche qualcuno che voterà Vincino. Insomma, comunque si sceglie il 12° presidente della Repubblica italiana a partire da oggi. La situazione a leggere i giornali sembra chiara e complicatissima al tempo stesso. Chiara perché, se si leggono i giornali, Renzi ha proposto il nome di Mattarella. Renzi vuole Mattarella, solo che Berlusconi da quell'orecchio non ci sente, dice che Mattarella è un integralista, è un giustizialista, gli è sempre stato contro da giudice della Corte Costituzionale. Berlusconi vorrebbe invece Amato e pare che anche Bersani possa volere Amato, ma Renzi Amato dice no. E intanto quelli del Movimento 5 Stelle propongono le quirinarie, cioè votate in rete da oggi alle 9, cari elettori del Movimento 5 Stelle. E tra i nomi c'è Prodi, c'è Bersani, che sembra un po' quasi anche una provocazione, o comunque per mettere in difficoltà evidentemente Renzi. E poi c'è chi propone anche Vittorio Feltri. Insomma, se la pensate come dice Iena oggi sulla Stampa, che scrive: eleggetene uno, ma lasciateci vivere. O se non ci capite molto, cercheremo di dipanare questa complicata matassa con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Buongiorno direttore, bentrovato. Buongiorno a voi, grazie. E saluto anche, lo avevamo alle 6:30 in diretta Vincino e mi ha consigliato di rivolgermi a lui comunque sempre come direttore a vita, Giuliano Ferrara. Buongiorno. Buongiorno, che da oggi bene. Da oggi firma Claudio Cerasa, nuovo direttore del Foglio. Quindi direttore va bene, direttore comunque. Direttore a vita non è male. Direttore sa a vita. Di senatore, sa di di prebende, di cose, di poltrone che non si lasciano mai. Cose belle. Anni meravigliosi. Uffici, eccetera, non so se mi daranno cose così belle e pompose. Vabbè. Comunque, Giuliano Ferrara è anche in libreria con il Royal Baby, Matteo Renzi e l'Italia che vorrà, di edito da Rizzoli. Allora, Ferrara, voi al Foglio siete tifosi di questa limonata tra Renzi e Berlusconi, che a parte insomma, l'immagine aberrante, vuol dire che Renzi e Berlusconi hanno un patto. Ma allora è tutta manfrina quella che leggiamo? C'è il nome o no? Ma non lo so, sai, quando ci si ama ci sono anche ogni tanto dei dissensi, in tutti i matrimoni ci sono dei punti sui quali non si arriva mai a una conclusione comune. Mi pare che su Mattarella sia difficile, però non escludo che poi alla fine Berlusconi faccia il ragionamento che faccio anch'io. Mattarella non è il mio tipo, è un cattolico di sinistra, così con una venatura ideologica che non si attaglia molto, mi pare, alla nuova stagione, però è quello che mette insieme i deputati, i senatori e i grandi elettori che servono a Renzi per non fare una cattiva figura e per varare un presidente così di compromesso, sul quale nessuno ha niente da dire, e chi se ne frega lo voto. Insomma, io sarei su questa posizione, anche perché non mi pare che ci siano grandi alternative. Amato è una bravissima persona, ma sappiamo tutti che ci sono motivi forti fatti, diciamo, che riguardano una carriera insieme, sì, smagliante e tragica e tremenda. Sì, il timore che Amato venga impallinato dai franchi tiratori, questo è il timore di Renzi. Una cosa allo sbaraglio, perché... no? Sì. No, secondo me alla fine Berlusconi dovrebbe convergere per ragioni di convenienza politica, per... Insomma, il punto di questa elezione del Presidente della Repubblica è un organismo sensibile come una radio vivace come la vostra, sì, non dovrebbe dimenticarlo, è che un anno fa, prima del patto del Nazareno, Roma era assediata dai grillini che chiedevano alla classe politica di costituirsi, gridavano Rodotà tattà in piazza Montecitorio, sembrava che venisse giù il mondo, si è dovuto rieleggere Napolitano, varare un governo di larga coalizione, invece un anno dopo con il Nazareno e il fenomeno Renzi, il sistema si è completamente sbloccato. È tornata, insomma, la politica al centro. Certo, il sistema si è sbloccato e si fanno delle cose, via. Invece interessante, vorrei capire il punto di Antonio Padellaro. Il Fatto Quotidiano è il quotidiano più acerrimo nemico invece di questo patto del Nazareno. Allora, direttore, oggi tu scrivi che è una prepotenza politica il fatto che Renzi chieda votate scheda bianca alle prime votazioni. Perché è una prepotenza politica? Intanto volevo salutare Giuliano, che io proporrei come direttore emerito come Ratzinger, no? Hanno due direttori, un appartamento in Vaticano, sì, anche, però io sono un problema dell'appartamento. Poi volevo dire che non sono assolutamente d'accordo con la Iena quando dice votate le uno, lasciateci in pace. Siamo davanti a un'occasione di straordinario interesse dal punto di vista politico, perché appunto oggi si partirà con le schede bianche, vediamo, perché la Renzata potrebbe anche essere quella di proporre subito Mattarella al PD per evitare che attraverso il voto di oggi e quello di domani e dopodomani, quando il quorum è molto alto, la fronda, sì, la fronda che non è soltanto del Partito Democratico ma è anche dentro Forza Italia e alla quale si potrebbero unire i grillini, attenzione, possa per esempio con Prodi mettere un cuneo e se Prodi comincia a prendere voti in maniera consistente fin dai primi scrutini, per Renzi non è che si mette tanto però bene. Mattarella deve digerirlo Berlusconi, perché se Berlusconi dice, se oggi Renzi proponesse subito Mattarella e Berlusconi dice ai suoi no, non votatelo assolutamente, come si fa? Certo, infatti il patto del Nazareno è un patto di quelli solidi, attenzione, vanno rispettati fino in fondo. E non vorrei che per Renzi fosse in questa occasione la corda alla quale si sta impiccando il patto del Nazareno, attenzione, perché è chiaro che anche Renzi ha una libertà limitata. Quello che è interessante è capire come le altre forze giocano la partita, appunto questa famosa minoranza del PD, intanto da quante truppe è composta, no? Certo, Bersani, sì. Bersani è un oppositore di Renzi in questa occasione oppure non lo è, visto che il nome di Bersani viene fatto come possibile candidato? Sono anche interessato a capire, siamo anche interessati tutti quanti a capire che succede dentro Forza Italia, sì, perché se anche Berlusconi accettasse Mattarella quanti lo seguono? E infine, diceva prima Giuliano Ferrara il Grillo, ecco, Grillo l'altra volta, due anni fa, si concentrò i voti su Rodotà e fu, diciamo, una candidatura di bandiera, sì. Ho l'impressione che in questa fase voglia invece partecipare e anche lui giocare al tavolo dei grandi. Ma come? Mettendo appunto Prodi e Bersani. Ferrara, com'è la mossa di Bersani? Che Bersani proprio al Fatto Quotidiano ha detto ma che strano, due anni fa proprio il Movimento 5 Stelle sulla formazione del governo, guarda un po', non è che mi volevano questo grande bene, pare, no? adesso... Ma le mosse di Grillo, adesso lo dico con simpatia verso Antonio Padellaro, che dirige un giornale che è stato tra le altre cose anche molto grillino e forse lo è ancora, le mosse di Grillo sono non dico neanche incomprensibili, sono bizzarre, sono prive di qualunque senso politico, sono non significative, sottopongono alla base una rosa di 10 nomi che poi sono diventati 9 perché c'è una signora costituzionalista che giustamente ha detto non partecipo a questi videogame. La base sono qualche migliaio di poveretti collegati col blog che hanno eletto i gruppi parlamentari, poi arrivati in Parlamento e si è visto che gruppi parlamentari sono, c'è già un terzo se n'è andato. Insomma, è una storia, è la storia di un cabaret politico, non di un partito politico e nemmeno di un movimento politico. In Europa abbiamo il fenomeno Tsipras, il socialismo allegro e macio di questo a suo modo geniale Masaniello greco che ha fatto un governo di soli maschi, e abbiamo Podemos che sembra promettere bene questo Pablo Iglesias. Spagna, purtroppo sì. All'Italia è toccato il teatro, vabbè, pazienza, davanti siamo il paese classico del teatro. Vabbè, insomma, Padellaro, al di là del fatto di non credo dica dirigo un giornale grillino, questa no, anche perché noi abbiamo cominciato prima del Movimento 5 Stelle, abbiamo molti lettori certamente che sono simpatizzano per i grillini, ma noi però ne capisce le mosse del Movimento 5 Stelle adesso? Tante, cioè, perché prima hanno detto le quirinarie non le facciamo, poi le hanno fatte e le fanno. Io farei questa osservazione però sui fatti, cioè il Movimento 5 Stelle ha preso quasi 9 milioni di voti, sì. Ricordiamocelo, perché altrimenti sembra che siano quattro sciamannati che girano per la rete e hanno un gruppo parlamentare piuttosto forte, anche se qui sono d'accordo con Ferrara, una politica incomprensibile di Grillo, o forse comprensibilissima, sta portando delle scissioni, piccole scissioni progressive, questi sono fatti loro. Il punto è questo, che Grillo oggi ancora, il Movimento 5 Stelle nei sondaggi mantiene il suo 20-21%, quindi attenzione a liquidarli come una forza marginale e ininfluente se continuano a voler essere ininfluenti. Io spero che da oggi in poi loro capiscano che non possono più gestire questo patrimonio di voti come se fossero voti da mettere, una volta si diceva, del freezer e tenerli lì fino all'infinito. Ecco. Sì, sì. Ma io vorrei capire, in conclusione, se voi un nome ce l'avete in mente, perché Ferrara ha detto forse su Mattarella Berlusconi verrà convinto, pare che Renzi soprattutto agisca attraverso Fedele Confalonieri e anche attraverso Gianni Letta, insomma consiglieri di Berlusconi, per cercare di fargli digerire evidentemente Mattarella. Ferrara, un nome? A me piacerebbe Riccardo Muti, perché l'idea, visto che siamo un paese di teatro... È scomparso adesso, cioè era emerso... Ma l'idea di un direttore d'orchestra, infatti è stato uno scoop che ho molto invidiato al Fatto Quotidiano, l'idea di un direttore, però non Muti che si mette a fare il Presidente della Repubblica, che moriamo tutti di noia, Muti che va al Quirinale dove i compiti notarili del Presidente li assolve il Segretario Generale benissimo e viaggia per il mondo con un contorno di corazzieri, di cavalleria speciale del Quirinale e viaggia per il mondo e dirige. L'Italia ne avrebbe un beneficio pazzesco, raddoppieremo il turismo. Pensate l'arrivo a Chicago di Muti che dirige la Adriana Le Couvreur con i corazzieri poi a fianco. Il 31 dicembre non farebbe neanche il concerto, il discorso di fine anno farebbe il concerto direttamente. Esattamente cose, quello, certo. Cose incredibili. Padellaro, l'avete bruciato voi però Muti, l'avete bruciato. Sì, l'abbiamo bruciato, diciamo che forse Renzi gli aveva chiesto di non dirlo, poi in famiglia qualcuno ha parlato, sì. Ma mi piace molto questa immagine di Ferrara, di Muti che dirige il paese, sembra un film di Technicolor degli anni 50. No? Sembra che si cerchi un presidente un po' più politico, ecco, sì, questo almeno. Ecco, questo io almeno. Voglio dare un dolore a Giuliano proponendo un Gustavo Zagrebelsky. Perché io penso che lui è stato presidente della Corte Costituzionale, è un grande giurista, sa di politica, e, tra l'altro potrebbe essere anche così gradito al partito di Repubblica. perché essendo è un editorialista di Repubblica, è una persona molto per bene e ovviamente non sarà eletto. Ovviamente. Ma Padellaro, per concludere, Padellaro e Ferrara, ma Padellaro, ci può spiegare com'è nata la vicenda di Magalli? Cioè, quando è che vi siete accorti che Magalli, cioè, è nata perché qualcuno ha iniziato a votarlo in maniera seriale ed è diventato il numero uno dei candidati, dei lettori del Fatto? Oppure che è successo? La Magalli e la messe di voti che ha scatenato sulla rete una delle più belle goliardate degli ultimi anni, e che ovviamente ci ha preso in contropiede, perché noi tutto ci saremmo aspettati tranne questo suffragio per Magalli. Cioè, da dove è iniziato? Magalli, che tra l'altro è un uomo pieno di autoironia e l'ha capito perfettamente, sa di non poter essere candidato, come Vittorio Feltri peraltro, attenzione. Sì. Ma Magalli è un gioco, ma non è un gioco, cioè è un gioco, è chiaro che si scherza, ma d'altra parte è anche il segno che molti dei cittadini italiani non sono molto lontani da questa elezione del Quirinale e addirittura ci scherzano su dicendo allora meglio Magalli. Sì. Ma insomma devo dire che ha ravvivato un po' quell'atmosfera un po' grigia, un po' cupa che gravava su queste elezioni, che invece io penso possano essere un'occasione molto interessante e molto divertente. Ma sono interessanti anche perché sono un momento sempre storico, importante. Abbiamo avuto solo 11 Presidenti della Repubblica e quindi tra l'altro 10, visto che non l'ha fatto due volte. Fortuna, Per fortuna se l'avessimo avuto in 22 sarebbe terribile. No, infatti. Vabbè, Ferrara. Comunque, su Magalli posso darvi uno scoop. Il Foglio ha votato Magalli compattamente. Ecco, si è messo lì, vedete, alla rete, alle tastiere, e ha votato e fatto votare tutti i suoi aderenti, che non sono molti, per Magalli. Cioè, il nostro patto del Nazareno, Giuliano. Certo, il nostro patto del Nazareno. Bene, infatti. Vabbè, non vi chiedo allora di Vittorio Feltri, insomma, da direttore di giornale, magari un po' di invidia la provate. Però vabbè. Intanto vedremo un po'. Ringrazio Giuliano Ferrara, ringrazio Antonio Padellaro per essere stati con noi. Dopo la pubblicità invece torneremo alla vicenda del Politecnico di Milano. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, Politecnico di Milano, dove hanno deciso da un qualche anno di fare dei corsi esclusivamente in inglese, il che ha scatenato ricorsi da parte di alcuni docenti al TAR. Si pronuncerà ora la Corte Costituzionale. Pensate, dovrà dare un pronunciamento finale. Avremo ospite il rettore del Politecnico, dopo che abbiamo ospitato nei giorni scorsi il docente a capo della rivolta, diciamo, contro l'inglese. Il rettore del Politecnico invece è colui che sostiene l'importanza di questa svolta, un tema sul quale torniamo tra pochissimo. 24 mattino. Siamo qui, sono le 8:39 minuti. Allora, vogliamo tornare a parlare del tema che abbiamo affrontato un paio di giorni fa, della vicenda del Politecnico di Milano, dove per una decisione presa nel 2011, dal 2014-2015 le lauree magistrali e dottorati sono esclusivamente in lingua inglese. Questo ha fatto arrabbiare alcuni docenti che hanno fatto un ricorso al TAR accolto. Poi però c'è una sospensiva, insomma adesso c'è la fase del procedimento, si pronuncerà la Corte Costituzionale, la Consulta, però la polemica è comunque viva e voglio salutare il rettore del Politecnico, Giovanni Azzone. Rettore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei invece è uno dei fautori di questa svolta che giudica fondamentale. Perché è così importante insegnare esclusivamente in inglese in alcuni corsi, secondo lei? Guardi, più che insegnare in inglese è fondamentale oggi avere delle classi internazionali. Lo è per i nostri laureandi italiani, perché hanno la possibilità di aprirsi a un clima internazionale, che è quello che oggi le imprese chiedono. Lo è per il paese, perché in questo modo noi riusciamo ad attrarre studenti del resto del mondo in Italia. Faccia conto che il 92% delle domande che arrivano al Politecnico, abbiamo circa 5.000 studenti stranieri, arriva per i corsi in inglese. Quindi arriva per questo. Ma uno studente, se vuole studiare in inglese materie anche scientifiche o materie così importanti come architettura, non va direttamente in Inghilterra, non va negli Stati Uniti? Guardi, qua contano le prove. Noi abbiamo circa 4.000 domande l'anno di studenti da tutto il mondo che ci chiedono di studiare al Politecnico di Milano. Quindi ci sono. Non sono in astratto. Sai che su questi io so che vi siete abbastanza arrabbiati. Abbiamo avuto ospite, come avete sentito, credo, il professor Matriciani un paio di giorni fa, cioè colui che è stato un po' il capo di questi ricorsi al TAR, e lui dice: attraiamo gli studenti peggiori. Una frase anche molto, molto dura, non so se l'ha sentita anche lei. Anzi, sì, vogliamo farla risentire agli ascoltatori. Ha detto questo il professor Matriciani: un'università compete a livello mondiale, sì, potrebbero venire qui a studiare degli studenti americani, inglesi. Ma non vengono, vengono i peggiori. Vengono dal Pakistan, gli studenti stranieri, dall'Iran, gli studenti stranieri che vengono da noi, sì, adesso senza generalizzare completamente perché le eccezioni ci sono sempre, ma sono peggiori dei nostri peggiori studenti. Non è vero che noi... Insomma, questa è una frase molto, molto dura, no? Rettore, io ho fatto la stessa obiezione, dice: ma almeno siete competitivi a livello mondiale, dice, vengono i peggiori. È una frase... È quello, credo che si possono avere opinioni diverse e questo è assolutamente legittimo, però dare dati falsi non è una cosa, credo sia accettabile moralmente, in particolare per chi insegna dovrebbe moralmente verificare le informazioni che ha prima di trasmetterle a qualcuno. A parte che non ho nulla contro gli studenti pakistani, ci sono premi Nobel pakistani che avrei con grandissimo piacere al Politecnico di Milano, ma noi abbiamo circa 5.500 studenti stranieri e quasi la metà di questi vengono da 10 paesi che sono i nostri 10 paesi target, che sono Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone e i 4 BRIC, quindi Brasile, Russia, India e Cina, sì, che sono le 4 economie emergenti. Questi contano la metà del totale. Tanto per dire, noi quest'anno abbiamo avuto 1.500 ingressi nelle nostre lauree magistrali, mm-hmm, i pakistani sono stati 10, ma non perché ce l'abbiamo con i pakistani, no, ma perché siamo forse studenti migliori. È stata certamente anche una frase infelice quella di dire i pakistani, cioè indicare una nazionalità come inaccettabile. Senta, le chiedo questo, però la vicenda ha avuto e sta avendo un filone giudiziario. Insomma, intanto al TAR è stato accolto questo ricorso, ora ci sarà la Corte Costituzionale che si pronuncerà. Ma questa vicenda non è andata un po' oltre? Lei che ne pensa? Guardi, di quello che succederà? Devo dire, sono un ingegnere, quindi faccio fatica ad entrarmi nei meandri giuridici del nostro paese. Ma se l'aspettava, cioè che una scelta di autonomia didattica è finisse così, addirittura per tribunali? Devo dire, assolutamente no, e credo che uno dei punti di forza del sistema universitario in tutto il mondo sia che le questioni formative vengono discusse all'interno dell'università, ovviamente con confronti con l'esterno, però ricorrere ai tribunali per decidere come si internazionalizza, credo che sia in generale, qualunque sia l'esito, anche positivo per le nostre valutazioni, non il modo corretto di affrontare questi problemi. Non il modo corretto, tra l'altro ci arrivano molti messaggi. Antonio da Torino ci scrive che al Politecnico di Torino i corsi in inglese completamente sono una realtà già da tempo, evidentemente. Però questo ricorso, cioè se doveste perdere, è vero che, come ci dicono coloro che hanno fatto questo ricorso, potrebbe essere esteso a tutti, cioè potrebbe essere una legge, essendo un pronunciamento della Consulta, valido per tutti gli atenei? Devo dire che ormai il problema trascende il Politecnico di Milano. La Consulta è interpellata sul fatto che si possa insegnare in inglese, infatti, nelle università italiane. Ci sono, credo, vado sugli ultimi dati, con circa 200 corsi esclusivamente in inglese nelle 65 università italiane statali e nelle 30 più o meno non statali. Quindi di fatto vorrebbe dire, se venisse accolto il ricorso, che tutti questi corsi dovrebbero essere in qualche modo soppressi. Quindi per tutte le università italiane, questo per dire quanto potrebbe creare un problema, indipendentemente da come la si pensi. Assolutamente. Da questo punto di vista sì, c'è da dire che una delle accuse che viene fatta è questa: attenzione, alcune materie come le materie di architettura, dove è importante anche molto il dialogo, trasferire terminologie magari complicate, l'uso esclusivo dell'inglese potrebbe essere un ostacolo nel trasferire, come dal docente agli studenti, questo tipo di materie. Lei si è posto questo problema, ve lo siete posti? Ci abbiamo ragionato, abbiamo concluso nella nostra scelta, che il Senato accademico peraltro ha preso a larghissima maggioranza, peraltro nel 2011, ormai sono passati 4 anni, quindi sì, il mondo continua a cambiare, abbiamo valutato che fosse talmente importante assicurare un'apertura internazionale, soprattutto in un momento in cui il mercato dell'occupazione interno è particolarmente critico, che alcuni problemi potessero essere superati. Devo dire, le indicazioni che abbiamo oggi, tanto per dire, in architettura ci sono sia corsi in italiano oggi attivi che corsi in inglese. I nostri laureati nei corsi in inglese non ci appaiono in alcun modo deficitari rispetto a quelli laureati nei corsi in italiano, tutt'altro. Quindi vuol dire che almeno alcuni docenti riescono a farlo e tanti studenti riescono perfettamente a percepirlo. Poi ovviamente vedremo come si pronuncerà la consulta. Io le registro anche alcuni messaggi, devo dire, non lo dico per piaggeria, ma di sostegno. Insomma, Nicola ci scrive: rettore, vada avanti. O addirittura Stefano da Bologna ci dice: spero che almeno uno dei miei tre figli al liceo scelga il suo Politecnico. Bravo, ottima scelta. Però insomma, qua uno la può pensare in un modo o nell'altro. Il problema è che c'è una Corte Costituzionale che si pronuncerà. Ma ci sono i tempi di questa pronuncia, rettore? Guardi, non abbiamo indicazioni specifiche. Quello che devo dire a me interessa di più è che si è ribadito che il Politecnico da un lato ha lavorato all'interno della normativa vigente, questo già l'ha detto il Consiglio di Stato nella sua ordinanza. Dall'altro, soprattutto, se vuole, lei mi ha citato un po' il dispiacere per l'ultima intervista in cui siamo stati in qualche modo presentati come esempio di università che non vuole cambiare. Ecco, siamo un'università che ha cambiato molto e questo ha richiesto un lavoro forte ai docenti, ed è quello che forse si legge di più, devo insegnare in inglese, ma un lavoro fortissimo a tutte le strutture interne. Insegnare in un'università internazionale è una cosa, ma lavorare per un dipendente pubblico, quali sono i nostri, in un'università che vuole avere studenti di tutto il mondo, vuol dire cambiare completamente la mentalità di un'amministrazione pubblica, è uno sforzo importante. E all'accusa di volere in qualche modo mettere in secondo piano la lingua italiana, che rischia così di perdersi, lei come replica? Guardi, noi in questo modo abbiamo 5.000 persone che non conoscevano l'italiano, sono venute in Italia e stanno studiando l'italiano grazie a noi. Credo che siamo i migliori ambasciatori della lingua italiana nel mondo. Attraendoli qui, studiando in inglese, poi sono costretti in qualche modo, insegniamo e apprezzano la nostra cultura e la nostra lingua, altrimenti non l'avrebbero mai conosciuta. Credo sia un bel risultato. Va bene, intanto staremo a vedere, perché questa vicenda è tutt'altro che finita. La ringrazio, rettore, per essere stato con noi. Vedremo, rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone. Ci sono anche tante telefonate, riusciremo magari a coglierne un paio dopo però il traffico. 24 mattino. Allora, Andrea, abbiamo due Andrea, prima da Piacenza andiamo. Andrea da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dice? Dunque, io sono ingegnere e parlo 8 lingue, di cui 4 quasi madrelingua, però... adesso le voglio sapere, italiano ovviamente, italiano, inglese. Italiano, inglese, francese, spagnolo, sì. Poi parlo... Questa è madrelingua, direi... praticamente? Sì, praticamente sì. Sì. Poi direi abbastanza bene il portoghese e poi mi arrangio in un po' di altre lingue, come il tedesco... Che invidia, come il tedesco, poi? Sono andato spesso per lavoro, per dire, in Indonesia, oppure in Iran, quindi riesco, magari non riesco a tenere un discorso tecnico di alto livello, però al ristorante mi arrangio, capisco quello che mi dicono. Vabbè, Andrea, per esempio. Dopodiché? La mia cosa è questa qua, va benissimo, per carità, fare i corsi in inglese, va benissimo, intanto però i professori dovrebbero saperlo bene, perché altrimenti non è che insegnino chissà che lingua agli studenti, ma le lingue io stesso, ma tutti quelli che le parlano bene, le hanno imparate da piccoli, e alle scuole elementari, alle scuole primarie, che bisognerebbe fare delle ore totalmente in inglese. Però attenzione Andrea, non è che si vuole col Politecnico insegnare l'inglese, nel senso insegnare l'inglese, ci siamo intesi, ai rudimenti dell'inglese, si vuole attrarre così, rendere appetibile il Politecnico a uno studente straniero che viene a studiare in Italia perché l'inglese è la lingua internazionale. Su questo sono d'accordo. Poi aggiungo l'ultima cosa però, che era quello, io introdurrei il tema di italiano per gli ingegneri, perché io ho visto degli orrori, degli stupri della lingua, delle doppie z, congiuntivi. Guardi Andrea, ha talmente ragione che io lo introdurrei anche per i giornalisti ogni paio di mesi, perché guardi, lei li vede negli ingegneri, io li vedo tra i giornalisti. Andrei sempre da Andrea, ma a Firenze. Andrea, buongiorno. Buongiorno, salve. Ho fatto il dottorato di ricerca all'università e lavoro in un'azienda multinazionale. Secondo me questa cosa di fare i corsi in inglese, tra l'altro poi, non, da quanto ho capito, non a tutti i livelli, ma dalle magistrali, il dottorato, secondo me è una cosa fondamentale, perché tutti i sa qual è la critica? È che sono esclusivamente in inglese. La critica su cui si fonda il ricorso è non l'opzione, cioè sono solo in inglese. Questo è. Ma per esempio tutti gli articoli di ricerca e libri che ho io sono in inglese. Tutte le tesi di dottorato interessanti che leggo sono in inglese e molte aziende ormai l'inglese come lingua parlata, utilizzata nel lavoro, è la base, la gente iniziano a chiedere un'altra. Va bene, quindi Andrea, lei dice assolutamente, come pensa il rettore, è una scelta giusta. Guardate, ci torneremo perché il tema è molto caldo e sento che appassiona molto, molto gli ascoltatori, ma siamo al momento in cui dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare il nostro Ciao Italia. Sapete che da tempo chiamiamo in onda tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, dal mondo, come il nostro amico Andrea, ingegnere che conosce 8 lingue. E anzi, scriveteci se ci seguite con passione dall'estero, magari in streaming sul sito internet o in podcast. Scriveteci a 24mattino e radio24.it. E saluto Federico oggi. Buongiorno Federico. Buongiorno Milan. Dove sei tu? Sono ad Amsterdam. Ad Amsterdam, che bello. Cioè, fa tanto freddo adesso in Olanda? No, ma in questo momento ho appena iniziato a grandinare. A grandinare, neanche a nevicare, a grandinare. Sole e grandine. Sole e grandine ad Amsterdam. Che fai ad Amsterdam, Federico? Sono venuto 2 anni e mezzo fa per studiare e adesso lavoro in un fondo di investimento. Ah, quindi lavori nella finanza. E come la vedi? Come la vedi la Grecia lì? Siete preoccupati nel fondo di investimento per Tsipras? No, ma sinceramente qui non abbiamo avuto investimenti né in Grecia né in Italia né in Spagna. Vabbè. Quindi evitiamo paesi a rischio perché i soldi sono quelli dei pensionati, quindi uno vorrebbe tenerli più o meno al sicuro. Ecco, hai già fatto capire che sono i paesi a rischio: Grecia, Italia e Spagna. Vabbè, ma Federico, come si vive ad Amsterdam? È davvero un posto dove si gira in bicicletta, tutti un modo di vivere molto sereno? Assolutamente, si vive tutti in bicicletta, con ritmi più o meno lenti e rilassati. Una cosa che stupisce è che sembrano tutti sempre molto felici e sereni, calmi, difficile farli arrabbiare. È un mondo molto più rilassato dell'Italia. Un mondo più rilassato. Tu di dove sei in Italia? Io sono di Roma. Di Roma? C'è un abisso, immagino, da questo punto di vista, no? Del modo di... Guarda. Il piacere di non dover mai più prendere la macchina, cercare il parcheggio, diventare nervoso e poter semplicemente poggiare la bicicletta davanti al luogo in cui stai andando, non apprezzo. A Roma sarebbe un po' di... anche più piccola, immagino, Amsterdam di Roma, no? Sì, è più piccola, ma alla fine sono 1 milione di persone, di cui il 50% stranieri. È molto multiculturale. Dicci la cosa che più ti manca dell'Italia, invece quella per cui pensi ogni giorno: che bella scelta che ho fatto. La cosa più bella che mi manca dell'Italia è sicuramente amici, famiglia, che non è comunque mai una scelta facile andarsene. Mentre la cosa, diciamo, che mi rende felice di essere qui è l'organizzazione diversa, semplicemente l'atteggiamento delle persone che sono molto più collaborative, più flat, come si dice qui, c'è meno gerarchia. Meno gerarchia, tutti più disponibili, diciamo così, flat, esatto. piatti nel senso molto diretti, molto sereni. Anche troppo diretti. Chi vorresti presidente della Repubblica, che da oggi si comincia lì, da Amsterdam? Sicuramente c'è solo un nome nella testa di tutti, che deve essere Vincino. Vincino, sei un grande Federico, certo, Vincino, cari grandi elettori, ve lo dice anche Federico da Amsterdam, il nostro candidato è Vincino, e quindi per favore almeno un voto, 2, 3 voti, dai 4 voti in su iniziamo ad esaltarci, ma almeno uno, Vincino, dai per favore. Siete in 1000 rotti a votare, uno potreste tirarlo fuori, Vincino. Grazie a Federico da Amsterdam, ci sentiamo domattina alle 6:30. 24 mattino.